Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24, parliamo senza prenderci troppo sul serio, però facendo seriamente della cosa di cui tutti parlano e speriamo che sia l'ultima volta, perché insomma poi alla fine si rischia di diventare stucchevoli. Parliamo del problema posto dal duro commento di Veronica Berlusconi a proposito del modo di vivere e di essere, sia privato sia pubblico, di suo marito Silvio, che è il nostro Presidente del Consiglio. Quindi parliamo di un fatto pubblico, non di un divorzio privato, quello ci penseranno, se ci sarà, gli avvocati, eccetera, eccetera, eccetera. E direi che partiamo nel parlare di questa cosa da una notizia che non c'entra niente, ma che secondo me è fondamentale. È venuto fuori, è stato trasmesso anche da una TV locale, che il mio amico Silvio Berlusconi, il Presidente del Consiglio, in Abruzzo, dopo i momenti del dolore, del dramma, eccetera, eccetera, ormai nella sua quasi quotidiana attività di soccorritore in capo, ha incontrato, credo proprio il 25 aprile, una bella signora di 40 anni, assessore a non so che cosa della provincia di Trento, che tra l'altro è la regione, il luogo più progressista, più politicamente, ideologicamente, religiosamente corretto, forse del mondo. E che cosa ha fatto Berlusconi? Ha detto: posso palpare un pochino la signora per cortesia? Cioè, posso palpare la signora? Cioè, ha fatto capire con una specie di manifesto così irredimibile, assolutamente irredimibile, non si può riscattare quel tipo di libertà che si prende un uomo, che lui ha voglia di scherzare, ha voglia di giocare e si ritiene libero di farlo. A 73 anni, dall'alto di quella montagna di quattrini che ha guadagnato con il suo lavoro e dall'alto di quella montagna di voti che si è guadagnato con la sua, virgolette, simpatia. E questo è un bel problema, perché da qui bisogna partire. Posso palpare la signora? Berlusconi ha questo tratto ludico. Il bravissimo commentatore della stampa Massimo Gramellini oggi ripropone una vecchia definizione, lo statista pop, a proposito della sua performance televisiva. E non so, nonostante i molti sforzi ideologici, politici, della gerarchia, di Avvenire, del cardinale Casper, del mondo femminile femminista, della sinistra, eccetera, per ottenere da lui più sobrietà, penso che non ci arriveranno. Sentiamolo ieri sera Porta a Porta. In passato era già successo che falsificazioni di certa stampa avevano indotto qualcuno a delle reazioni che non si sarebbero verificate se le cose dalla stampa fossero state riportate nella loro realtà. Tutto assolutamente falso, cioè tutto ciò che è stato una trappola in cui purtroppo anche mia moglie è caduta. E si vede che la sinistra e la sua stampa non riesce ad accettare la popolarità, che è al 75%, cioè a 3 italiani su 4, è ridotta, come vediamo, e quindi ha cominciato soltanto con gli attacchi personali fondati sulla calunnia. Credo che chi è incaricato di una funzione pubblica come il Presidente del Consiglio possa accettare la continuazione di un rapporto soltanto se si chiarisce anche da parte di chi ha provocato questa situazione che quelle due situazioni erano false, e si dichiara quindi pubblicamente di essere incorsi in errore. Quanto alle conseguenze politiche, che sono parte di questa discussione pubblica che noi facciamo di un problema pubblico posto dalle dichiarazioni di Veronica Berlusconi, sentiamo Pagnoncelli, il più autorevole forse sondaggista italiano. Rispetto alla vicenda familiare del Presidente del Consiglio abbiamo chiesto la sua opinione: è cambiata sul Presidente del Consiglio oppure no? E vedete, l'84% dice no, non ho cambiato l'opinione sul Presidente del Consiglio, il 15% dice è peggiorata. E abbiamo risposte abbastanza simili sui due elettorati, quello del PDL un po' meno e il PD un pochino di più. Poi abbiamo una seconda domanda Abbiamo chiesto, ma secondo lei questa vicenda cambierà gli equilibri elettorali, inciderà sul voto degli italiani? E qui vedete che il 71% del cartello 2 dichiara sostanzialmente che non cambierà nulla, un quarto degli elettori al contrario pensa che ci possa essere un contraccolpo, che il Presidente e il PDL possa essere danneggiati. Qui sottolineo che sono soprattutto gli elettori del PDL a temere questa eventualità. Bene, ringraziamo Ballarò da cui sono tratti questi dati e questi formati sonori. Bene, 800 24 00 24, ci è mancato poco che Deborah Rosciani desse anche la quotazione azionaria del divorzio Berlusconi-Ilario. Dunque, noi abbiamo come ospiti una giornalista del Manifesto, una persona di grandissimo valore, si chiama Ida Domiliani, che esprime sul Manifesto a modo suo, senza diciamo inflessioni militanti che certe volte possono sembrare magari un po' stucchevoli, la cultura diciamo del femminismo italiano e internazionale. Poi abbiamo Ruggero Guarini, che è uno scrittore e giornalista bastian contrario, molto raffinato e sottile, e Antonio Polito, lo conoscete, è il direttore del Riformista. Io comincerei subito con Ida Domiliani, facendo una domanda precisa. Posso palpare la signora? Ecco, questa frase colloca Berlusconi in un mondo che lei ha individuato nei suoi recenti corsivi e articoli come un mondo stellarmente lontano. Naturalmente qui stiamo parlando di una cosa scherzosa, non ha palpato nessuno, ma insomma voleva scherzare, voleva far ridere, voleva... E il mondo dello sciupa femmine, il mondo... Questo mondo naturalmente è diversissimo dal suo e da quello di tante altre persone che hanno un altro modo di rapportarsi agli altri, alle donne, di porre il problema di altri uomini, maschi, italiani, eccetera. E anche, però quello che voglio dire, c'è il diritto di essere diversi da come siete voi? Buongiorno Giuliano. Buongiorno. E grazie mille della presentazione fin troppo generosa. Prego. Certo che c'è il diritto di essere diversi, questo è evidente, c'è perfino, lei l'ha detto, un elemento da sdrammatizzare di simpatia, di empatia, di ludicità, di giocherelloneria in quello che fa il Presidente del Consiglio. Però lei capisce bene che uno può divertirsi giocando a boccette, oppure se si diverte sempre e solo ossessivamente trattando le donne che incontra, tutte dai 3 ai 90 anni, come fonte di personale divertimento, e questo manifesta intanto appunto un atteggiamento un po' ossessivo e poi certamente una visione del mondo femminile molto esornativa, molto ornamentale, che serve sostanzialmente a farlo divertire. E questo secondo me non è un problema privato del Presidente del Consiglio, cioè, o per meglio dire, di Silvio Berlusconi. Il punto è che Domiliani, diciamo, posso fermare? Sì, sì, finisca e poi l'abitudine di questo paese, degli uomini di questo paese, che io non la voglio prendere sul lato morale, la voglio prendere su un altro lato, che è l'abitudine a non prendere sul serio le donne. Poi sì, su questo magari tornerò dopo. Sì, anche perché poi naturalmente cioè, ci sono molte donne che questa abitudine la apprezzano, la titillano, certo, la favoriscono. Ma è gratificante, sì. Ecco, in un mondo peraltro fondamentalmente deerotizzato. Sì. Qual è secondo me anche quello di Silvio Berlusconi, perché io penso che sia molto una messa in scena questa cosa qui, che non corrisponde poi a un erotismo reale. L'erotismo è fatto di altre tonalità. Ecco, bene, comunque abbiamo appurato che si ha il diritto di scherzare, anche entro certi limiti, di scherzare sulle questioni che riguardano i rapporti tra uomini e donna. Può non piacere assolutamente, si può detestare quel modo di essere, ma insomma c'è diritto liberale di essere ciascuno come desidera. Naturalmente poi se ne pagano le conseguenze, cioè ti capita la durezza, perché Berlusconi ha tirato fuori una piattaforma dura di critica culturale, politica e civile del marito. Ha detto non si fa così, il divertimento dell'imperatore, le vergini portate al drago, cioè ha tirato fuori una serie anche di metafore brucianti, incandescenti, che naturalmente adesso lo hanno messo in imbarazzo, l'hanno costretto ad andare in televisione, diciamo, e a esporsi, penso, oltre il gradito. anche se lui è un uomo che ama esporsi, che ama le, diciamo, le sfide trasparenti, quelle del la sua, come lei la chiama, corazza di narcisismo, è una delle più perforate del mondo. Però io quello che volevo chiedere, certo, ma io quello che volevo chiedere a lei è questo. Non è un po' imbarazzata, visto che lei ha fatto battaglie molto dure contro l'oscurantismo, i moniti della gerarchia cattolica su come si deve vivere, gli attacchi della gerarchia cattolica a Zapatero e al suo matrimonio gay, alla sua riforma del codice civile? Lei certamente non... Voglio dire, lei certamente aborre l'idea dell'asse del sacro, no? Di cui ogni tanto si parla, le religioni insieme che impongono alle donne un elemento di modestia voluto da Dio, il velo, o dalla tradizione o dalla cultura, il velo alle donne, il corpo della donna che si ricopre pudicamente perché si deve disvelare solo nel serraglio del matrimonio. Ecco, adesso lei ha L'Avvenire che dice certe cose, precisa che non parla a nome dei vescovi ma parla solo come giornale, ma insomma affida una bella penna di una editorialista una cosa che scortica Berlusconi sulla linea del Ciarpame. Poi abbiamo sulla Stampa oggi una bella intervista del Cardinale Casper, una delle più grandi autorità del conclave della Chiesa Cattolica, che dice no, sobrietà, modestia, valori, eccetera. Ecco, stare in questo coro non vi imbarazza? No, guardi, io non sono imbarazzata per nulla, intanto perché, come lei sa benissimo, io non aborro la linea del sacro, aborro la linea del bigotto, che è un'altra questione rispetto al sacro. Lei lo sa meglio di me questo. E quindi, invece, ho grande rispetto per il sacro dove si presenta come tale. Ma non mi sento affatto in imbarazzo, perché qui, secondo me, non stiamo parlando di libertà. Dobbiamo essere attenti alle parole. Non stiamo affatto parlando di libertà e non stiamo neanche parlando, io vengo adesso, prima di che voi mi telefonaste, ho visto un omnibus impostato da questo punto di vista in modo molto discutibile, non stiamo parlando neanche con pruderie, che invece io abborro, di comportamenti sessuali malvagi di questo signore. Noi stiamo parlando, e la ringrazio molto di aver impostato le cose correttamente, di una denuncia pubblica che una donna, nel caso sua moglie, ha fatto di un modello culturale che non ha niente a che vedere con la lotta al bigottismo. E che questo modello, di cui non ne possiamo più in parecchie, certo. Da questo punto di vista è assolutamente normale che voi siate del partito diverso. Fare anche paragoni col caso Clinton, ma il caso Clinton era completamente diverso. Lì c'era un comportamento sessuale discutibile del Presidente degli Stati Uniti che si configurava come un tradimento di una moglie che ha valutato, io non anche ho un po' come un tradimento, anche un lei. Po' come un tradimento dei doveri pubblici, diciamo, nell'ufficio della Casa Bianca con una stagista. E va bene, ma qui io non sto discutendo se Silvio Berlusconi abbia avuto una relazione sessuale con una minorenne. La frase di Veronica Lario non è che lui ha avuto una relazione sessuale con è che lui si accompagna con le minorenni, frequenta le minorenni, una cosa del genere, che è un altro discorso ed è sgradevole, cioè è sgradevole che noi siamo continuamente di fronte a questo imbellettamento della cosa pubblica, per cui una cosa o è bella, rifatta, con le labbra al silicone, oppure non è, e questo vale per tutto, anche per il modo di affrontare il terremoto. Certo. Cioè, devo dire, per Berlusconi, lei l'ha capito prima degli altri, infatti ha scritto le cose più interessanti da un punto di vista antagonista, diciamo, alla cultura media, civile, del mondo di Berlusconi e della maggioranza degli italiani, ma lei ha capito meglio degli altri, perché Berlusconi questa cosa la applica prima di tutto a se stesso, si fa ricrescere i capelli con un'operazione chirurgica, si rifà la faccia, si è femminilizzato, ma questo io l'ho sempre trovata una cosa a suo modo, diciamo, certo non sobria ma anche bella, una cosa che lo mette in contatto con un mondo di possibilità, di occasioni, il premier femminile, il premier che ama la beauté personale, che si vuole presentare bene, che ha paura dell'alito cattivo, il sole in tasca, la pasticca... Cioè, Berlusconi è un complesso fenomeno di segni che ci dice delle cose interessanti a proposito della grammatica del potere. Il manierismo. Erasmo, come è noto, c'è una differenza. Va bene. Ruggero Guarini, ecco, Ida Dominiani esprime sconcerto per questo modello, diciamo, di vita e di rapporti con le donne che Berlusconi ha abbastanza messo in piazza e che Veronica ha ferocemente criticato. Cosa pensa lei? Ma io naturalmente sono in totale disaccordo con questa seriosità nel valutare i modi di comportamento di Berlusconi. In primo luogo penso che bisognerebbe, quando si parla di Berlusconi, aver sempre presente un dato psicologico e morale del personaggio, il quale può essere astutissimo, furbo, scaltro, acuto, sprezzante, beffardo, avere tutte le qualità e tutti i difetti di questo mondo, ma al di sopra o al di sotto di tutti questi difetti mi sembra che sia contraddistinto da un siderale candore. L'uomo è fondamentalmente candido, candido è fondamentalmente lieto, candore e letizia sono i tratti principali di quest'uomo e sono questi tratti che suscitano la maggiore dose di antipatia, insofferenza e disprezzo nel campo di coloro che lo avversano. Candore e letizia è un bel titolo per un articolo, me lo può scrivere per domani per il Foglio, Guarini? Sarebbe molto gentile, perché no, perché se no. C'è un pomeriggio libero, grazie. Come no. Ecco, invece Apolito, direttore del Riformista, e lo dico perché ho citato il Foglio e non voglio fare torto a nessuno, Apolito l'ha buttata, diciamo, in tecnica politica, cioè ha scritto un articolo molto anglosassone dicendo: beh, qui la questione è se Berlusconi è in grado, nonostante questo ciclone, questa cosa che lo ha travolto, poi alla fine di fare bene il suo mestiere di Presidente del Consiglio, il resto è meno importante. Conferma questa opinione, ce l'argomenta Apolito? Non ci sia un nesso molto stretto, molto forte tra potere morale, potere e comportamenti privati. Ho l'idea, diciamo, che la democrazia sia sostanzialmente un sistema in cui chi concede la sovranità usa il governante, e il punto cruciale in queste storie è sempre quello che si è posto, per esempio anche nel caso Clinton e in altre vicende analoghe, è sempre quello di capire se il comportamento privato riduce la possibilità di compiere liberamente il servizio pubblico e correttamente. Nella lettera di Veronica c'è un punto dove si fa un riferimento a questo, che poi secondo me è la cosa cruciale dal punto di vista pubblico. E quando lei dice, quando lei adombra l'idea che Berlusconi sia malato, perché lui dice, l'ho detto ai suoi collaboratori, no? Cioè che questa versione ludica che voi avete descritto in realtà sia un'ossessione, in quel caso certamente se fosse così allora noi avremmo un Presidente del Consiglio non totalmente libero e in grado di svolgere le sue funzioni. Se questo non fosse, se si dimostrasse che questo non è nella pratica del governo, io credo che dal punto di vista del giudizio del pubblico, un po' come sentivo anche dai sondaggisti dire, non cambierà granché. Questa a me pare la questione, si è sempre posta in questi termini. Lei ha posto in termini, diciamo, di eleganza formale la questione che un simpatico giornalista di Libero, che, diciamo, l'eleganza formale non è proprio la materia prima di Libero, pone come, dice, dobbiamo vedere se Berlusconi ha la malattia della gnocca. Insomma, ho letto questa cosa con un certo divertimento. No, ma quella malattia lì sarebbe tollerabile al pubblico, il problema è come la si esercita. Certo. Faccio un esempio banalissimo. Non entriamo troppo nei particolari, devo dare fortuna la pubblicità. Un esempio banalissimo. Se uno nei propri comportamenti privati non va oltre un certo limite o non controlla le situazioni, può essere esposto, per esempio, a delle pressioni, a dei ricatti. Certo, no? certo. In questo caso non mi pare il caso della festa di Casoria, perché sebbene i credenti, cioè coloro che devono credere ai propri pregiudizi fino al punto da smentire la realtà, abbiano detto che sono ritoccate, le foto che sono state pubblicate della festa di Casoria mi sembrano più quelle di un nonno che fa campagna elettorale non vedo il morboso, non vedo il torbido, però non si può escludere la malattia della gnocca, come dice Libero. Posso aggiungere una cosa? Sì. la persona che l'ha invitata a quella festa per ammissione del Presidente del Consiglio, sì, ieri sera Porta a Porta, sì, gli voleva parlare di candidature. Sì, sì, sì. Che quantomeno, non so, per me è un po' sorprendente, ma anche forse un po' improprio, ecco, questo, a questo mi riferivo prima. Ma improprio, il Presidente del Popolo della Libertà potrà parlare di candidature con chi vuole. Ma le due candidature di cui si parlava, si tratta di due dirigenti storici della PDL, sì, non capisco come mai quella persona aveva, diciamo così, modo di perorare la causa dei due dirigenti storici del PDL, non essendo un dirigente, non essendo un militante. Ma cioè, pensi in quanti matrimoni, sì, sì, ma in quanti, vabbè, queste sono cose che diciamo che non conosciamo, ma in quanti matrimoni, in quante prime comunioni si discute di elezioni, di candidature. Cioè, voglio dire, mi sembrava proprio una cosa, anzi, un po' arcaica della vecchia e tradizionale Italia politica. Comunque è solo un'opinione. 800 24 00 24, il risvolto pubblico del caso Berlusconi. Veronica, Maria da Caserta. Buongiorno. Maria? Buongiorno. Sì, pronto? Eccoci. Ecco qua, buongiorno. No, è che sto da tanto tempo al telefono, per cui... Ecco. Adesso è il suo turno, poi parlerà buongiorno Roberto da Milano. Dica. Tutti, buongiorno a tutti. Allora, io cerco di sintetizzare, anche perché è complicato e non ne ho la capacità di esporre al telefono tutto ciò che vorrei dire in generale. Per quanto riguarda questo problema, io lo risolverei facendo un invito al Presidente del Consiglio di effettivamente di controllare quello che è il suo comportamento. Lui non se lo può permettere, per cui se fosse una persona qualunque è chiaro, potrebbe fare chi se ne frega, però in questo caso lui dovrebbe controllare, si facesse consigliare dai suoi ministri, che ce ne sono, tra l'altro a me piacciono, cioè li condivido questo governo in un certo senso, anche se la mia storia è diversa. Dunque ci sta Tremonti, Letta, non lo so. Ecco, si faccia consigliare e dire, comportamento consono. Stati un po' tranquillo, effettivamente. Ho capito. Lui esagera. Lui esagera. Ci deve un pochino dare una regolata. Va bene. Grazie Maria. Roberto da Milano. Certo che dire a uno di 73 anni di darsi una regolata mi sembra un po' tardivo, ecco. Vabbè. Allora dica Roberto. No, io volevo dire che così è una provocazione. Abbiamo avuto nel dopoguerra una classe politica estremamente seria e eticamente ineccepibile, che ha fatto cose serie e eticamente ineccepibili. Poi siamo passati a una classe politica apparentemente ineccepibile e autoreferenziale, che ha fatto cose che sono di fronte a tutti di qualsiasi colore. Adesso abbiamo la terza alternativa, secondo me, cioè una persona che può essere discutibile dal punto di vista comportamentale, ma questo dipende da quello che ognuno pensa sia giusto o sbagliato, ecco, a livello di comportamento, però certe cose io le vedo, quindi siccome l'amministratore si valuta per quello che fa dal punto di vista della cosa pubblica, se poi dopo così gli piacciono le donne, vabbè, non è un peccato, ecco. E fino a quando troverà una donna che gli dà credito e lo segue, a questo punto credo che il discorso andrebbe fatto più che altro alle donne, ecco, perché va bene, molto chiaro. Il problema secondario, diciamo, che deriva da quello che sta succedendo è che cosa deve fare, perché tutto purtroppo guai ai vinti, chi perde le elezioni, chi viene emarginato politicamente, cioè deve risalire, sto parlando della sinistra italiana, in particolare il Partito Democratico, si mette sempre nei guai, ma è meglio vincere, ve lo dico io che sono uno che ha perso tante volte nella propria vita e anche recentemente contro l'anarchia etica di Berlusconi, la mia lista ha preso pochi voti. Dunque, voglio dire, il problema è che cosa deve fare il Partito Democratico? Mi hanno raccontato che ieri a Ballarò Franceschini era imbarazzato, cioè poi alla fine è sbottato, insomma, è scattato l'attacco, così dicono almeno alcuni giornali. Dominiani, da un certo punto di vista, lei ha invitato la sinistra a non rifugiarsi dietro i proverbi, non mettere il dito tra moglie e marito, insomma a considerare che alla fine, come diceva il vecchio pensiero femminista, il privato è politico, e quindi a mettere sul tavolo una idea di vita, di esistenza, di cultura, di rapporti con gli altri, diversa da quella di Berlusconi, antagonista a quella di Berlusconi, e battersi per questa idea criticando Berlusconi. Il problema è che, abbiamo sentito prima Pagnoncelli, sembra che gli italiani siano del tutto impermeabili a questa dialettica e che il loro giudizio su Berlusconi, anche se abbiamo avuto due telefonate che parlano un altro linguaggio, da questo punto di vista non cambierà mai per ragioni di questo tipo. Domenichiani. Ma no, invece volevo proprio partire dalla telefonata di Roberto, sì, perché lui dice un amministratore si valuta per quello che fa e non per quello che è, e se poi gli piacciono le donne, finché una donna ci sta va bene così. Ecco, io non la vedo diversamente, perché intanto questo non sono neanche d'accordo con Polito, anche se lo sarei in teoria, diciamo, però non lo sarei stata molti anni fa, adesso non sono più d'accordo, perché la politica è fatta anche di quello che si è, anche del proprio corpo, anche della propria immagine, e in questo Berlusconi è stato esattamente, se posso usare questo termine, un rivoluzionario della politica italiana. Io questo gliel'ho sempre riconosciuto. Lui ha incarnato questo passaggio ad un mondo in cui personale, sì, e politico si confondono molto. Poi secondo me lui l'ha fatto più privatizzando la politica che politicizzando il personale, come faceva il femminismo, ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano. Ora il punto è, se gli piacciono le donne, dice Roberto, pazienza, che importanza ha? E invece no, perché intanto io contesto che le donne gli piacciono. Io sono d'accordo con Emma Bonino, che ieri ha detto che questo è il comportamento di uno che le donne profondamente le disprezza. Cominciamo a dire questo. Ma il punto è che tutti adesso dicono, finché le donne ci stanno, ma qui stiamo attenti però, Ferrara, perché qui il problema è di quanto le donne si sentano gratificate da questo modo di trattarle. Ed è intanto una che non ci sta si è trovata e si però chiama Veronica Lario. Intanto una non c'è stata e non l'ultima, diciamo. Però c'è anche il problema di quanto gli uomini si identificano in questo tipo di e non ce lo dimentichiamo questo. Certo. Perché secondo me invece l'operazione che Berlusconi ha fatto è stata proprio quella di rassicurare un certo immaginario sessuale maschile molto radicato in questo paese. Se posso aggiungere, perché mi fido appunto del quoziente di libertà che una trasmissione da lei condotta garantisce, di rassicurarlo proprio in un momento in cui era molto destabilizzato, che se facessimo un discorso serio sullo stato, diciamo, dell'arte erotica in questo paese, in questo momento di grande depressione del paese, eccetera eccetera, credo che dovremmo fare dei ragionamenti di segno molto diverso dall'apparenza. Da quello molto allegro e molto certo. Ecco, da questa specie di, sì, allegria da operetta. Certo. E se, dato che ho la parola molto rapidamente, sì, su quello che ha detto Guarino, Candora e Letizia, che forse c'era un leggero lapsus, visto che la signorina di Napoli si chiama Noemi Letizia, però insomma, io non sono seriosa, Guarino, quindi non è il problema che qualunque cosa dica una persona di sinistra adesso è serioso. Io però difendo anche la libertà d'essere seri, tra le tante libertà che ci sono. Perché questa favola che si è insinuata in questo paese, per cui bisogna essere continuamente appunto dei giocherelloni, prendere tutto per bene, essere ottimisti e pensare positivo, andava anche bene. Beh, questa è proprio la favola di Berlusconi. In cui un fenomeno emergente si trasforma in un fenomeno decadente. Sentiamo su questo e diamo la palla a Guarini, un commento di Massimo Gramellini, ve lo dicevo prima, va in onda lo statista pop. Gramellini si chiede, gli stranieri, basta vedere la CNN, non riescono a comprendere la nostra mancanza di indignazione. In America una roba del genere avrebbe travolto l'uomo pubblico da molto tempo, ma uno può indignarsi dello specchio, sebbene il caso Clinton, scusate perché prima ho detto dell'America, dimostri un po' anche il contrario. Quando l'economia andava molto bene, c'era la New Economy, Clinton era all'apice del suo secondo mandato, non c'è stato bestia di processo puritano ai suoi comportamenti sessuali che sia stato capace di detronizzarlo, ma comunque. E Gramellini si chiede, ma uno può indignarsi allo specchio? E dice, questo è il paese dove un qualsiasi piccolo imprenditore conclude un affare di miliardi con una mail e intanto scambia via sms una barzelletta sconcia con un amico, mentre al telefono ordina un mazzo di fiori per il compleanno dell'amante. Alto e basso, serietà e cazzeggio, cinismo e lacrima in contemporanea. Questa è la bassa grandezza d'Italia e chi la vorrebbe diversa rischia di ritrovarsi all'opposizione di se stesso. Sono giochi verbali, sono paradossi, Guarini, ma insomma è un'idea di questo paese che forse lei, che è scrittore, giornalista e gran lettore della cultura e della letteratura italiana, può mettere un po' a punto. Ma io... La bassa grandezza dell'Italia. Ma questi qua sono... Su quali giornali degli Stati Uniti, per esempio, sono uscite queste critiche? Sono giornali probabilmente dominati dalla casta degli intellettuali di Manhattan, contraddistinti da una feroce correctness politica, no? Insomma, io non credo che l'America fonda corrisponda più o meno all'immagine che dà di se stessa attraverso... che quel paese dà di se stesso attraverso la sua stampa libera, insomma, no? È un po' più complicato, insomma, questi sono giudizi che possono piacere agli ammiratori, ai fans di Woody Allen, non certo a quelli che possono provare simpatia per Schwarzenegger, no? Insomma, ecco. Poi invece, però, tornando invece ai casi di fatti di quando io ho detto candore e letizia, candore e letizia, mi riferivo naturalmente a un candore metafisico che va al di là di tutte le operazioni anche astute che possono aver contraddistinto la politica di Berlusconi e anche la sua attività di imprenditore. Non sono così ingenuo da pensare che sia una mammoletta, non penso affatto a questo. Dico però che l'uomo, ciò che contraddistingue il carattere di quest'uomo, è che tutto ciò che fa, anche le cose più discutibili, le fa a partire da una assolutamente candida convinzione, da un sentimento assolutamente candido del suo essere nel giusto. È un po' questo, una qualità, un difetto che ha in comune con la sinistra, perché anche la sinistra ha questo stranissimo attributo divino di pensare che qualunque cosa lei faccia e pensi è sempre giusta, e quando non la fa e non la pensa nel momento giusto è perché in quel momento bisognava dire le sciocchezze che aveva detto, no? Quest'idea qua lui la condivide. La nota però che distingue il candore di Berlusconi da quello della sinistra è che il candore di Berlusconi è venato di letizia e quello della sinistra, ahimè, di è venato di mestizia. Ho capito, va bene. Bene, Paola da Bergamo esprime una classica critica che viene molto ripetuta a Veronica Berlusconi, secondo me non tanto legittima, ma sentiamola. Paola. Buongiorno, sono Paola da Bergamo. Dica. Allora, io volevo dire questo. Prima di tutto premetto che io non mi sento offesa da Berlusconi col suo atteggiamento verso le donne. E trovo che anche nel suo governo le abbia messo abbia dato loro degli incarichi molto importanti. E quindi questo già è prova del fatto che comunque lui le donne le tiene in valore, in alto valore, non in basso valore. Questo è vero. Come? Questo è vero ed è anche stato fortunato, perché insomma le parlamentari del Popolo della Libertà, sì, sono gente molto seria. Fa il suo mestiere, voglio dire. Ecco, il lato bello della donna, no? Il lato di valore, certo, della donna. E poi invece per quanto riguarda il suo rapporto con sua moglie, trovo che ci sia qualcosa di strano alla partenza, nel senso che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, e la donna comunque che ha un uomo che si espone pubblicamente deve avere un ruolo dietro fondamentale in questa cosa, perché deve accettare, secondo me, che il marito si esponga pubblicamente. Quello che mi sembra strano è che non abbiano non tutte le grandi donne che stanno dietro ai grandi uomini, per usare questa sua formulazione, amano poi stare dietro. Alcune a un certo punto dicono: no, adesso io mi metto davanti e dico la mia. Nel senso che probabilmente questa donna non accetta un ruolo secondario, che però invece non è secondario perché è dominante, perché poi è lei che supporta questa possibilità del marito di fare il suo ruolo. Lei sta esprimendo un classico caso di ideologia, diciamo, italiana, non propriamente femminista, in cui la donna deve stare dietro l'uomo, aiutargli, reggergli la scala, intanto l'uomo fa la sua scalata al cielo. È un tratto culturale rispettabilissimo, si ha diritto di pensarla così, ma penso che Ida Dominiani stia fremendo in questo momento. Però sentiamo prima Michele da Milano. Pronto? Michele, carissimo, dica. Buongiorno signor Ferrara, piacere di conoscerla, sentirla. Piacere mio. anche perché la sento spesso in altre, trasmissioni. Allora io dico la mia. Secondo me il nocciolo della questione qui è stato abbondantemente sviluppato ed evidenziato nello confronto a porta a porta ieri sera tra De Bortoli e Berlusconi. Quando De Bortoli ha detto: io, il Presidente del Consiglio, non vorrei che andasse alle feste di compleanno. Ha detto esattamente questo, si ricorda, non dovrebbe fare questo, più o meno esattamente quello che ha detto una signora poco fa quando ha detto il Presidente deve darsi una regolata. Io invece Berlusconi è stato molto abile a ribaltare la cosa e ha detto no, io praticamente non sarei me stesso altrimenti, ed il nocciolo della questione è lì, non gli si riesce a perdonare in un certo senso il fatto di aver rotto con gli schemi della politica in cui il politico deve essere per forza un serioso parruccone che deve fare la persona a carica istituzionale, a destra e manca, non deve, deve essere qualcosa in un certo senso al di sopra della gente normale. Ecco, vorrei dire, sia scritto da nessuna parte, è esattamente il contrario. Michele, lei mi ha dato la, ci sta dando l'occasione per dire una cosa secondo me che ha una sua sensatezza e ne vorrei parlare con Polito. Dunque, avete presente Sarkozy? Ecco, il presidente francese ha alimentato grandi speranze come candidato, era serio, serioso, duro, ministro dell'interno, la sicurezza, la patria francese, la rivisitazione del gollismo, la modernizzazione, la Francia deve reimparare a lavorare, la produttività. Poi è andato al potere e si è parlato molto, sì, ha fatto anche delle cose importanti, interessanti, però si è parlato molto del suo divorzio da Cecilia e del suo nuovo matrimonio con una figura molto imposante come Carla Bruni, no? Bene, risultato sta al 30% di gradimento, cioè non piace. Perché? Perché non ha quel temperamento, quel carattere un po' monarchico, quell'aplomb, come dicono i francesi, quel tratto di sobrietà, appunto, e quel, è un presidente attivista, è un presidente iperattivista, sta dappertutto, matrimonio, divorzio, eccetera, eccetera. Più moderna come figura rispetto a Mitterrand, che sembrava che si è ingoiato un manico di scopa, De Gaulle, che addirittura... Ecco, però, Polito, la rivoluzione del diritto al gioco che Berlusconi ha introdotto e che sta facendo, diciamo, proseliti in giro per l'Europa, è reversibile da questo punto di vista in un paese come l'Italia? Possiamo, forse sì, ma insomma possiamo immaginare, secondo me lo diceva un po' prima anche la Domenigliani, questo fatto di scomparsi i partiti, aver messo le persone al primo posto, comporta necessariamente fare i conti col carattere delle persone, per cui Franceschini sarà amato ed eletto Presidente del Consiglio quando gli italiani sceglieranno il modello Boy Scout, e invece Berlusconi resterà nelle grazie di una maggioranza di italiani oppure no, a seconda che gli italiani amino o no il modello del diritto al gioco. Prego, Polito. Sì, entro, è giusto quello che lei dice, entro i limiti dell'efficacia della loro azione di governo, naturalmente, perché se uno è bravissimo a giocare e poi non è bravo a governare, comunque viene sanzionato. E qui vediamo un punto, secondo me, cruciale, nel senso che io sono convinto, come del resto detto anche da Domenigliani, che come dire, la politica moderna è fatta di corpo, di personalità, e la gente giudica in gran parte sulla personalità. Proprio per questo io, lei prima diceva cosa deve fare la sinistra, proprio per questo io, se fossi, diciamo, un leader della sinistra, eviterei accuratamente di scivolare sul terreno, diciamo, di portare la mia opposizione sul terreno antropologico, che è un errore che nei confronti di Berlusconi è stato compiuto fin dal primo giorno dai suoi oppositori per la assoluta estranietà di Berlusconi alla tradizione politica italiana. E però è un errore gravissimo che è costato moltissimo all'opposizione, perché adesso vorrei dire una cosa, diciamo, che non può apparire un po' esagerata, ma nello stile che spinge, nell'entusiasmo, nel gusto dell'applauso, ieri sera Porta a Porta lui ha elencato con un compiacimento incredibile tutti i complimenti che gli facevano al Salone dell'Immobile di Milano, no? Mi dicevano magico, magico. Sì, l'uomo ama piacere. Fingendosene imbarazzato, no? Ma quell'entusiasmo che lo porta al bagno di folla nelle cucine del ristorante di Casoria, c'è qualcosa che anche la stessa cosa che lo porta a passare 10 giorni di seguito all'Aquila, di andare nelle tende, abbracciare la vecchietta che gli va incontro, Cioè c'è un tratto di concessione di se stesso come i taumaturgi, insomma è una cosa che non è che la prima volta che succede nella storia, no? Sì. Che nella politica conta, che nella politica c'è, e se uno lo contrasta su questo, proponendo un modello diverso, ieri Franceschini ha perfino riportato in auge la battuta veltroniana contro i quiz che regalano televisivi, che regalano soldi. Se uno lo contrasta su questo in Italia, in questo paese, quantomeno rischia di farsi un danno con le sue mani, perché quel tipo di corporeità politica è evidentemente apprezzato. Sono d'accordo, poi un moralismo tira l'altro, se uno sbaglia il primo moralismo poi se la prende pure col quiz, vabbè, allora diventa proprio la rotta generale, insomma. Va bene, Ida Dominiani, siccome lei è l'unica, Berlusconi direbbe dama, io dico donna, diciamo, nel nostro panel le do l'ultima parola. L'ha detto che c'è una dama, canterò per lei. Ecco, appunto. Allora, ha l'ultima parola, ma non può andare oltre il minuto per ragioni di tempo. No, ma forse ne prendo anche meno. Io penso su queste ultime battute che avete fatto che bisogna stare molto in ascolto, però, perché è tutto vero, però sono anche elementi molto volubili e molto fragili di un consenso di massa, e noi sappiamo dalla storia di questo paese che i consensi di massa si possono anche capovolgere, sì, improvvisamente. Quindi io in questo momento sto molto in ascolto, vorrei che la sinistra uscisse da questo trip in cui tutti però la mettiamo continuamente, di quello che dovrebbe fare, cioè trovare un po' più di autenticità, che faccia con più libertà quello che sa fare e che può fare. L'ultima battuta, lei ha citato Sarkozy propriamente, posso però citare Obama, perché Obama è un caso interessante di populismo con punte di serietà, che forse ci ricorda che dopo 20 anni in cui in Italia il medium è stato il messaggio e siamo sempre stati attenti solo a come si facevano le cose, come si andava in televisione, come si comportava, forse un po' di attenzione al che cosa finalmente potrebbe essere. Va bene, augurandoci, d'accordo con lei, augurandoci naturalmente che Michelle Obama un giorno o l'altro non esploda pure lei, perché allora veramente è una catastrofe planetaria, insomma non sapremo più dove rifugiarci. Si perché... amano davvero. Sì, vabbè, ma Michelle se per caso si arrabbia e decide anche lei, insomma, di vendicarsi e di mettersi in piazza, è la fine del mondo. Grazie a tutti, grazie a Guarini, grazie a Ida Dominiani, grazie ad Antonio Polito, che prego di rimanere al telefono, gli devo dire una cosa privata. Poi in redazione Franca Fossati, Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini, Fabio Cantadori, linea al GR, poi Gianluca Nicoletti con Melo 2.0. Grazie a tutti voi, un bacio, a domani.